30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il leader libico Muammar Gheddafi ha scelto la ricorrenza del 14 luglio per accusare il presidente francese Nicolas Sarkozy di essere un criminale di guerra che ha macchiato la storia di Francia e distrutto i rapporti tra il suo paese, la Libia, e i paesi musulmani. Nello stesso giorno il leader libico caccia il cane a sei zampe e annuncia l'interruzione di qualsiasi collaborazione con l'ENI, deplorando la circostanza che Roma abbia violato un accordo di non aggressione siglato 3 anni fa con la Libia. Siamo noi a dire no alla Libia, replica il ministro Frattini. Ancora buonasera, benvenuti all'appuntamento a 30 minuti in cronaca. Dunque 115 giorni di operazioni militari, ma resta l'interrogativo sulla sorte della Libia, del suo leader Gheddafi. Non a caso questa settimana il settimanale, l'hebdomadaire francese Jeune Afrique, uno dei più importanti tra quelli appunto che si occupano della regione, titola semplicemente Jusqu'à quand, fino a quando dunque Gheddafi al potere. E direi che è da qui che in fondo giro questa domanda a Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto, allora tu cosa ne pensi? Siamo alla fine oppure no? Ma fino a quando? Una bella domanda. Intanto però si può fare una riflessione: per quanto ha resistito Gheddafi? Siamo praticamente a 6 mesi circa dall'inizio della rivolta di febbraio, dalla rivolta di Bengasi, a 5 dall'inizio dei bombardamenti francesi, poi inglesi e americani, e poi della NATO. E quindi possiamo dire che ha già resistito quasi 5-6 mesi a un'ondata di rivolta nel mondo arabo che avevano spazzato via in poche settimane, pochi giorni addirittura, Ben Ali in Tunisia e Mubarak in Egitto, e cacciato anche Saleh in Yemen. Gheddafi è un osso duro, e su questo direi che non c'è dubbio. Non c'è dubbio alcuno, non solo un osso duro, ma è difficile da maneggiare, perché come sempre atteggiamenti ambigui. Da una parte i suoi emissari dicono che sarebbe pronto a farsi da parte se si trovasse una tregua delle armi e poi una trattativa politica per mettersi d'accordo tra il governo di Tripoli e i ribelli. Dall'altra lancia messaggi molto meno pacifici e molto più duri, molto più contrastanti, e sembra che non voglia lasciare il potere pacificamente, e questo determina anche la risposta assai ambigua che sta avendo la comunità internazionale. Insomma, Gheddafi di grande capacità di mediazione quando l'urgenza lo impone, l'ha dimostrato in passato, non dimentichiamo, passando in fondo in pochi anni da Lockerbie, e mi riferisco naturalmente alla strage, all'attentato terroristico, all'aereo in volo, al riconoscimento, alla cancellazione dalla lista nera americana. Oggi, questa sera, vi faccio anche sentire una voce dall'interno della Libia, quella di Walid Zuei, che è un ingegnere civile che a Bengasi proprio era impegnato nella costruzione di un complesso di abitazioni popolari, insomma un ingegnere che faceva il suo lavoro nella normalità e che ci racconta come le cose abbiano cominciato a degenerare con il passare dei mesi e degli anni attraverso una serie di promesse mancate. L'anno scorso sembrava che qualcosa si stesse muovendo per migliorare la vita quotidiana dei libici. Io lavoravo in un grande cantiere di edilizia popolare che doveva essere completata in 3 anni e che invece veniva continuamente rinviato, e non sarebbero bastati 10 anni a finirlo. Come compagnia privata abbiamo avuto enormi difficoltà finanziarie, burocratiche e anche per reperire i materiali da costruzione. Ma qual era il problema maggiore? Ti costringevano a usare materiali scelti da loro, materiali da costruzione che noi non avremmo scelto e che ci venivano imposti. Insomma, in Libia, anche attraverso i cantieri, montava il malcontento. Negli ultimi anni la gente ha cominciato a porsi delle domande sulla propria libertà. La gente ha cominciato a chiedere ad alta voce la Costituzione che Saif, il figlio di Gheddafi, aveva promesso già 5 anni fa. E poi, proprio nell'ultimo anno, Saif al-Islam ha detto che il progetto costituzionale era morto e noi ci siamo ritrovati al punto di partenza. Siamo ritornati al punto zero. In fondo, economia e diritti civili, un mix che muove le rivolte, non solamente in Libia. Alberto, da questo punto di vista, la distanza tra Gheddafi e il suo paese, diciamo il solco, ormai è incolmabile, oppure credi di no? Ma da un certo punto di vista sembra che lui sia ormai destinato a uscire di scena, ma da un altro lato della prospettiva noi dobbiamo sempre pensare che la Libia non è esattamente l'Egitto o la Tunisia, è un paese diviso in due grandi regioni, una è la Tripolitania con Tripoli appunto e la zona di Gheddafi ancora lui fedele, in parte fedele a lui. Dall'altra parte c'è la Cirenaica con Bengasi, la zona della Tripolitania è la più popolata, è un paese dove le divisioni tribali sono ancora molto forti, quindi è difficile pensare comunque a una soluzione che preveda una semplice uscita di scena di Gheddafi, di tutto il suo clan, senza in qualche modo una trattativa. I danni potrebbero essere gravi se non si arrivasse in fondo a un negoziato, e questo l'hanno percepito persino i francesi, anzi sono loro, da quanto io ho potuto capire anche in incontri che ho avuto in questi giorni con la diplomazia internazionale, a volere una soluzione. L'hanno proposta ieri a Madrid in una riunione informale del gruppo di contatto che si trova a Istanbul a esaminare appunto le possibili prospettive, ma l'ho visto e l'ho sentito anche da altre voci della sponda sud del Mediterraneo e del Medio Oriente, cioè l'idea che Gheddafi esca di scena è chiara a tutti, ma a tutti è chiaro anche che una sua uscita di scena deve essere in qualche modo accompagnata da una trattativa politica. La soluzione militare probabilmente non è sufficiente, non basta, e potrebbe anche provocare addirittura delle reazioni incontrollate nel paese. Ecco, dunque, persino i francesi, diciamo persino nel senso che, come sappiamo, i francesi sono stati più determinati nel perseguire fin dall'inizio l'esclusione, la fine, a descrivere la fine della traiettoria lunghissima peraltro politica di potere di Gheddafi, ritengono che sì, debba andare via, ma non per questo non ci debba essere una trattativa. Noi ora torniamo proprio nell'est libico con le parole ancora di Walid Zwei, che nel frattempo da ingegnere cambia vita. Oggi è il responsabile amministrativo, pensate, del Libyan Appeal Team, che è una coalizione di ONG libiche attive nel coordinamento degli aiuti umanitari a Bengasi. Sono legati a una ONG italiana che è il CESVI e che in qualche modo sta integrando, peraltro con una presenza in loco, l'attività di un paese che impara nuove forme di relazione, come appunto sono le ONG così importanti da noi. Ecco, a lui abbiamo chiesto di raccontarci il suo 17 febbraio 2011, il giorno della rivolta, il giorno in cui per molte persone la vita è davvero cambiata. 17 febbraio, un momento di svolta. Ci racconta il suo 17 febbraio. What about you in February 17th? Actually, when I heard that the people will go out in the street on 17, I take a week vacation from my work. Quando ho visto che la gente scendeva per le strade, mi sono preso una settimana di vacanza. Non avevo contatti con il movimento di protesta, ma girando per le strade della città ho visto tanta gente e tanti professionisti come me. Ho visto avvocati e giudici che manifestavano per chiedere al governo il rispetto dei diritti civili e la creazione di istituzioni democratiche. Poi in un'altra strada ho visto dei giovani che combattevano disarmati le armi dell'esercito e in testa avevano gli elmetti gialli degli operai dei cantieri, proprio come il mio. E li ho visti con i miei occhi. Loro, disarmati, uccisi dall'esercito che gli sparava addosso. Ingegnere, lei si considera un rivoluzionario? Sì, certo, perché da quel giorno non sono più tornato al mio lavoro. Ma prima di quel giorno si considerava un rivoluzionario? No, actually I am ordinary Libyan. No, io sono un cittadino normale e un professionista. Il lavoro del project manager non è semplice. E io prima di febbraio pensavo solo a fare il mio lavoro e a tornarmene a casa la sera dalla mia famiglia. Il mio impegno era nel cercare di acquistare una casa per la famiglia o anche nel cercare le cure mediche per la famiglia, visto che in Libia non c'erano le cure mediche che servivano. Pensavo alla famiglia, insomma, tutto il tempo. All the time you think about your family. Ecco, l'avete sentito, Walid Zwei, un ingegnere che appunto la storia, gli eventi trasformano nel corso di pochi giorni. Alberto Negri, secondo te quanto questa breve storia in qualche modo è rappresentativa della società libica? Perché è vero, insomma, noi poi intervistiamo, sentiamo delle persone che hanno già fatto una scelta molto precisa, ma è così diffusa questo desiderio di cambiamento all'interno della società? È significativa nella misura in cui mette in luce uno degli aspetti di questa rivolta, sicuramente quello popolare, quello che ha coinvolto anche molti quadri, come dire, della borghesia di Bengasi, cioè scoppia la rivolta e molte persone che lavoravano anche in aziende di Stato, qui abbiamo sentito un ingegnere edile, ma potrei citare, ho incontrato proprio lì tanti che appartenevano per esempio ad aziende, dirigenti di aziende petrolifere, che si sono schierati coi ribelli, nelle cui file sono affluiti poi di tutto, dai giovani ai meno giovani, poi a qualcuno che aveva defezionato, molti membri dell'ex regime. E questo è un aspetto della rivolta popolare che sicuramente ha avuto un peso importante e fondamentale. Poi c'è una parte che non abbiamo visto, una parte che non ci hanno raccontato, che però emerge dalla lettura delle carte anche dei rapporti dei servizi occidentali. Un lato meno evidente, un lato oscuro di cui ci stava parlando Alberto Negri. Prego Alberto. Beh, la faccia nascosta di questa rivolta sono state le manovre diplomatiche internazionali, in particolare della Francia, a cui ha fatto riferimento peraltro anche recentemente il sottosegretario agli esteri italiano Stefania Craxi in una riunione con i parlamentari della sponda sud di vari paesi, dalla Libia, dal Libano all'Iraq, all'Egitto. Io ho assistito a questo incontro. E il riferimento è stato molto chiaro agli interessi francesi che sono stati portati avanti. I francesi avevano preso contatti con l'opposizione diversi mesi prima, non solo, ma quando è scoppiata questa rivolta si sono infilati immediatamente per manovrarla in qualche modo, per indirizzarla. Qual era l'obiettivo dei francesi? Lo affermano gli stessi servizi di Parigi nei loro rapporti. Cioè, la Francia era stata presa, come tutti peraltro, di sorpresa dalle rivolte arabe, e in particolare in quella Tunisia, dove addirittura la Francia si è giocata nel corso della rivolta un ministro in uno scandalo proprio legato all'ex presidente Ben Ali. Quindi la Francia in qualche modo doveva prendersi un po' una rivincita su una sponda al sud dove ha voluto essere sempre protagonista, e quindi ha agito certamente per indirizzare questa rivolta, per spingere una risoluzione dell'ONU che è arrivata in 48 ore, una risoluzione tra l'altro molto ambigua in cui si parlava di protezione della popolazione civile, ma lo è stato solo per alcuni giorni, perché poi ci si è buttati a bombardare non solo le truppe di Gheddafi in Cirenaica, ma lo stesso Gheddafi a Tripoli. Ecco Alberto, quindi... ma se è una questione di puri giochi di potere, di cancellerie, come avremmo detto un secolo fa, allora gli interessi italiani sono stati tutelati adeguatamente? Direi di no perché l'Italia, come tutti sapete, aveva stretto dei legami molto forti con Gheddafi. Ricordo la visita nell'agosto del 2010 in cui viene firmato sancito questo trattato di amicizia e di cooperazione molto profondo, che comprendeva tra l'altro contratti per miliardi di euro per l'ENI, per la nostra società petrolifera. Insomma, che qual è stata però la mancanza dell'Italia? La mancanza dell'Italia è stata quella in qualche modo di non intervenire subito. Nel momento in cui è esplosa la rivolta, probabilmente il nostro governo, che aveva un'influenza, che ha avuto un'influenza particolarmente profonda sulla Libia, doveva in qualche modo intervenire per cercare di contenere Gheddafi, di metterlo su una strada più ragionevole e meno di contrapposizione con gli insorti, con i ribelli, con l'opposizione. Insomma magari di consigliarlo. Di consigliarlo meglio. Poi naturalmente l'Italia si è opposta all'inizio a questo intervento, lo sappiamo tutti, si è opposta come si era opposta alla Germania, come si era opposta alla Turchia. Poi è intervenuta in qualche modo spinta, costretta dall'intervento francese, dalla necessità in qualche modo di non essere del tutto cacciata da un paese con cui aveva stretto legami così stretti. Insomma, un rapporto sicuramente confuso in quella fase, tant'è che gli alleati all'interno dello stesso governo parlavano di un presidente del Consiglio costretto, cosa che insomma di per sé non appare molto positiva in nessuna presidenza del Consiglio. Ma io direi di sentire allora insieme l'ultimo passaggio di questa intervista, che lo ricordo, Walid Zwei, oggi a capo dell'organizzazione amministrativa del Libyan Appeal Team, quindi la coalizione di ONG, che ci racconta anche quelle che sono le speranze all'interno di un paese che poi, di cui vedremo con Alberto Negri subito dopo, probabilmente è arrivato a un punto di svolta, non fosse altro perché i movimenti delle truppe da est a ovest si fanno pericolosamente vicino alla capitale, pericolosamente naturalmente per il colonnello Gheddafi. I'm surprised myself. The communication is very tight. Io stesso sono molto sorpreso del grado di comunicazione che si è creato tra le zone bianche, le zone liberate dalle forze di Gheddafi. They say the same words in the same... Stessi problemi, stesse preoccupazioni. Ma di certo posso dire che la rivoluzione non potrà essere completata se non dopo la partenza di Gheddafi. Ci saranno molte difficoltà di sicuro, ma credo che possiamo affrontarle con ottimismo, perché già ci stiamo lavorando. Vogliamo delle cose normali, che prima però non esistevano. Vogliamo avere rapporti amichevoli con tutti i paesi del mondo e quello che dico non è solo una mia idea, ma è l'idea della grande maggioranza della gente normale. Vogliamo essere un paese aperto e non vogliamo che sia un paese comandato dai religiosi. Noi libici siamo dei moderati e lo siamo da sempre. Abbiamo bisogno di normalità, di rispetto della legge e di libertà. E sono certo che ci arriveremo. Ottimismo naturalmente non potrebbe essere diversamente da chi, come abbiamo sentito questa sera, cambia la propria vita e slega la propria storia anche alla causa di un cambiamento. D'altra parte oggi parlano le armi, abbiamo parlato dell'est e dell'ovest. A ovest nel Jebel Nefus sono i berberi di fatto che prendono posizione, controllo e probabilmente rappresentano la tenaglia, l'ala occidentale della tenaglia che chiude su Tripoli, ma non dimentichiamo che poi anche questa è quella storia che oggi appare di coalizione, di legami e anche diciamo sono anche, ci sono i prodromi delle divisioni, delle complessità future. Insomma, la chiave è la cacciata ancora una volta di Gheddafi. Alberto Negri, quanto manca a quel giorno? Io credo che ci sia una difficoltà anche nell'arrivare a un trattativo, un negoziato politico. Una delle difficoltà, per esempio, è il fatto che sulla testa di Gheddafi ci sia un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale dell'AIA. È difficile trattare con un personaggio o comunque trovare una via di uscita diplomatica soft per un personaggio che è insomma all'indice della giustizia internazionale proprio da poche settimane. E questo crea in fondo anche, aumenta le possibilità che questo resista e che non se ne vada tanto facilmente. In qualche modo anche questa storia ci rimanda per esempio a quella di Bashir in Sudan, il presidente sudanese, anche lui fu condannato dalla Corte Penale Internazionale per i massacri nel Darfur. Ed è ancora lì. Ed è ancora lì, attenzione. Quindi non sempre tutte le mosse che vengono fatte per condannare un leader di queste, benché siano magari assolutamente giustificate, poi possono facilitare delle soluzioni politiche. Ecco, tu credi alla possibilità che si costituisca una sorta di isola assediata di appunto Tripoli, con un magari isolata dall'enorme entroterra libico, ma non per questo destinata a cadere? Io credo questo. Abbiamo avuto in questi mesi una sorta di drôle de guerre, cioè una guerra di stallo, in poche parole, con queste avanzate recenti dei ribelli libici, ma tutto sommato vediamo che non si è arrivati ancora a uno showdown militare preciso. Potremmo entrare in una sorta di stallo diplomatico. Attenzione che tra pochi giorni, all'inizio, alla fine del mese di luglio, inizia il Ramadan, che è un periodo tradizionalmente di digiuno e un periodo in cui nel mondo musulmano si va verso di solito delle tregue, si sospendono le attività anche militari, oltre che politiche e della vita quotidiana. Quindi io penso che potremmo entrare in una soluzione di stallo diplomatico che prolunghi ancora fondo questa agonia libica. Chiedo un'ultima cosa ad Alberto Negri, una cosa proprio velocissima. Ci hai descritto il ruolo diplomatico della Francia e l'incapacità di fatto italiana di gestire questa sua relazione storica. Nel frattempo abbiamo imparato, mi riferisco al paese, alla diplomazia, qualche cosa oppure una partita persa? No, prima di tutto abbiamo imparato una cosa da tutte queste rivolte arabe, che dovremmo cercare di osservare più attentamente quello che succede in queste società, perché tutto sommato queste rivolte o rivoluzioni, che come si vogliono definire, hanno colto tutti di sorpresa. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che le possibilità che ha la comunità internazionale di incidere in queste situazioni spesso non sono così importanti o così decisive come si vuol pensare. La soluzione ai problemi dell'Egitto verrà dall'interno dell'Egitto, non verrà da fuori come in Tunisia e come in fondo penso alla fine anche in Libia, perché dipenderà un po' dalla volontà del regime di Tripoli e da quello dei ribelli di Bengasi arrivare a una soluzione magari non militare e negoziata di questo conflitto. E magari i nostri ingegneri Zuei, come oggi abbiamo sentito, rappresenteranno il futuro, la capacità di concludere in una maniera non drammatica, anche se è difficile definirla comunque tale dopo oltre 120 giorni di guerra, ma insomma una soluzione che possa rimettere la Libia in un cammino pacifico con le altre nazioni del Mediterraneo e della regione. Io ringrazio Alberto Negri di essere stato con noi. Buonasera Alberto. Grazie a voi. Roberto Scaltriti in regia questa sera, da parte mia un saluto, solo ricordo radio24.it per sentire e risentire tutte le trasmissioni di Radio 24. Buon fine settimana.